Davanti a Larry O'Rourke, a Larry, al bravo Larry O, Boylan sbandò e Boylan svoltò. Dalla conchiglia abbandonata, Miss Mina scorse fino ai boccali in attesa. No, non era tanto sola. Maliziosamente la testa di Miss Deuce fece sapere a Mr. Lidwell: passeggiate al chiaro di luna in riva al mare. No, non sola. Con chi? Rispose nobilmente. Con un signore mio amico. Le dita balenanti di Bob Cole suonavano di nuovo nei registri alti. Il padron di casa alla precedenza. Un po' di tempo. Long John, Big Ben. Lievemente suonava un lieve, lieto tinnulo ritmo per dame danzanti, maliziose e sorridenti, e per i loro damerini, i signori loro amici. Uno, uno, uno, uno. 1, 1, 2, 1, 3, 4. Mare, vento, foglie, tuono, acque, mucche muggenti, il mercato del bestiame, galli, le galline non fanno chicchirichì, i serpenti sibilano. C'è musica dappertutto. La porta del Ralich. Cricchiola. No, è rumore quello. È il minuetto del Don Giovanni che suona ora. Abiti di gala di ogni sorta, danzanti nelle sale del castello. Desolazione. I contadini fuori. Facce verdi, affamate, che mangiano foglie di romice. Carina questa. Guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardateci dunque. È gioiosa, lo sento. Mai potuto scrivere. Perché? La mia gioia è una gioia diversa, ma entrambe sono gioie. Sì, gioia deve essere. Il semplice fatto della musica mostra che sei. Spesso credevo che avesse le paturnie fin quando non cominciava a canticchiare. Allora sapevo. La valigia di McCoy. Mia moglie e sua moglie. Gatta mia golona. Come il rumore di seta strappata. Lingua, quando parla come il manico di un mantice, non possono sostenere gli intervalli musicali degli uomini, hanno un vuoto anche nella voce. Riempimi, sono calda, buia, aperta. Molli nel quis est homo, mercadante. Orecchio contro il muro a sentire. Ci vuole una donna in grado di fornir la mercanzia. Trotta trin trottò, si fermò. L'elegante scarpa gialla dell'elegante Boylan, calzini fantasia azzurro cielo, si posarono lievi a terra. Oh, guardate come siamo. Musica da camera. Ci si potrebbe far sopra un gioco di parole. È un genere di musica a cui ho spesso pensato quando lei. Acustica si chiama. Tintinnabulio. I vasi vuoti fanno più rumore. Perché l'acustica, la risonanza, cambia secondo che il peso dell'acqua è uguale alla legge di gravità dell'acqua. Come quelle rapsodie di Liszt, ungheresi, occhi zigani, perle, gocce, pioggia. Plin, plin, plam, plam, plon, plon. Sss. Ora, forse ora, prima. Un picchio alla porta, un ticchio da toc, fa toc Paul de Kock con un forte, fiero picchiotto, cocoricò, chicchi chicchiricoc, toc toc. Tic! Qui sdegno, Ben, disse padre Coli. No, Ben, interruppe Tom Kernan. The Cropy Boy, il nostro natio dialetto. Sì, dai, Ben, disse Mr. Dedalus, uomini prodi e leali. Dai, dai, implorarono tutti all'unisono. Ora vado. Ecco, Pat, ritorna. Vieni, venne, venne, non si trattenne. A me, quanto? In che tonalità? Sei diesis? Fa diesis maggiore, disse Ben Dollard. Gli artigli tesi di Bob Cowley abbrancarono gli accordi neri cupo sonanti. Devo andare, Principe Bloom disse a Ricci Principe. No, disse Ricci, sì, devo. Soldi da qualche parte. Ha intenzione di fare una bisboccia da mal di schiena. Quanto? Vede, sente, labbra, parole. 1,9, un penny per lei. Ecco, dargliene due di mancia. Sordo, tribolato. Forse ha moglie e famiglia che lo attendono. Attendono Patti che torni a casa. Sordo, attento, mentre attendono. Ma attendi, ma senti, tenebra di accordi. Lugugugugubre. Giù, in una cavità dell'oscuro centro terrestre. Oro in ganga, musica greggia. La voce dell'età tenebrosa, del disamore, della spossatezza della terra grave s'approssimava e dolorosa. Giunta da lungi, da montagne canute, si appellava agli uomini prodi e leali. Il prete egli cercava, con lui voleva parlare. Tic! La voce di barilottolo di Ben Dollard. Fa del suo meglio per esprimerlo. Gracchio di vaste paludi senza uomo, senza luna donna. Un altro calo. Fu fornitore della marina mercantile un tempo. Ricordo, cordami resinosi, lanterne di bordo. Fallì per la bellezza di 10.000 sterline. Ora è al ricovero Ivy. Letto numero tal dei tali. È stata la birra bass numero uno a combinargli questo scherzo. Il prete è in casa. Il servitor d'un falso prete l'accolse. Entra pur. Il reverendo padre, con inchini un servo fellone. Code arricciolate di accordi. Rovinarli, distruggere la loro vita, poi costruir loro delle stanzette per finirci i loro giorni. Ninna nanna, nanna oh, muori, cane, cagnolino, muori. La voce ammonitrice, solenne ammonimento, disse loro che il giovane era entrato in solitaria sala, disse loro come solenni echeggiavano là i passi suoi. Disse loro della tetra stanza, del prete con la cotta assiso a confessare. Un buon figliuolo, ora un po' rammollito, crede che vincerà il concorso del rebus poetico figurato in risposte. Riceverete un bel biglietto nuovo da 5 sterline. Uccello che canta nel suo nido. Credeva che fosse il canto dell'ultimo menestrello. G, tre vuoti. O che animale domestico. M, due vuoti e lo solca il prode marinaio. Ha sempre una bella voce e non è un eunuco con tutti gli ammennicoli. Ascolta. Bloom ascoltava. Ricci Goulding ascoltava. E alla porta Pat, sordo, Pat, calvo, Pat, guidardonato, ascoltava. Gli arpeggi rallentavano. La voce di penitenza e di duolo usciva lenta, abbellita di tremoli. La barba contrita di Ben confessava. In nomine Domini, in nome di Dio, si inginocchiò, si batté la mano sul petto confessando mea culpa. Ancora latino, te li invischia come uccellini. Prete con il corpus eucaristico per quelle donne. Quel tale nella cappella mortuaria. Cofano, coffi, corpus nomine. Chissà dove è andato a finire quel sorcio. Gratta. Tic! Ascoltavano. I boccali e Miss Kennedy, George Lidwell, gelide vellicanti palpebre, raso di busto pieno, Kernan, Sim. La voce sospirosa di duolo cantava i suoi peccati. Da Pasqua ben 3 volte aveva bestemmiato. Figlio di una. Ed una volta invece di andare a messa era andato a giocare. Una volta passando il cimitero per l'anima di mamma pregato non aveva. Un ragazzo ribelle dell'Irlanda. Bronzo, in ascolto, accanto alla pompa della birra, figgeva lungi il guardo. D'anima traboccante. Non pensa neanche lontanamente che io. Molly è un fenomeno per accorgersi se la guardano. Bronzo figgeva lungi lo sguardo di profilo. C'è uno specchio. È il lato migliore del volto, quello. Lo sanno sempre. Picchio alla porta. Ultimo tocco per farsi belle. Chicchirichì! A cosa pensano quando sentono musica? Sistema per prendere i serpenti a sonagli. Quella sera che Michael Gunn ci offrì il palco, accordavano gli strumenti. È quello che piaceva di più allo scià di Persia. Gli ricorda la casa, dolce casa. E poi si soffiò il naso in una tenda. Forse si usa al suo paese. È musica anche quella. Non così cattiva come sembra. Strombettamento. Ottoni, asini raglianti con probosci di erette, contrabbassi impotenti, ferite aperte nei fianchi, i legni mucche muggenti, pianoforte a mezza coda, aperto coccodrillo, la musica a mascelle. I legni, Oldwinds, ricordano il nome di Goodwin. Era bellissima, con quel vestito color zafferano scollato. A Menicoli in mostra e l'alito le sapeva sempre di chiodo di garofano quando a teatro si chinava per fare una domanda. Le dissi quello che dice Spinoza in quel libro del povero babbo. Ipnotizzata, ascoltava. Occhi così, si chinava e quel tale in prima galleria che la fissava alla disperata tutto il tempo col binocolo. Bellezza della musica, bisogna sentirla due volte. Natura e donne, basta mezz'occhiata. Dio ha fatto la campagna e l'uomo la canzone. Metti in che cosa? Filosofia. Oh, sorbe! Tutti andati, tutti caduti. All'assedio di Ross, suo padre, a Gorey caddero tutti i suoi fratelli. A Wixford, di Wixford gli arditi noi siamo. Egli potrebbe. Ultimo del suo nome e della sua stirpe. Anch'io, ultimo della mia stirpe. Milly, studentello. Beh, forse colpa mia. Niente maschi. Rudy, troppo tardi ormai. Ma se no, sì ancora. Non aveva odio per nessuno. Odio, amore, non sono altro che parole. Rudy. Tra poco sarò vecchio. I rintocchi di Big Bang si spiegavano nell'aria. Gran bella voce, disse Richie Goulding, rossore in lotta con pallore sul suo volto, a Bloom, tra poco vecchio. Ma quando ero giovane? Ora viene l'Irlanda, il mio paese al di sopra del re. Ella ascolta. Chi ha paura di parlare del 1904? È ora di svignarsela. Visto abbastanza. Beneditemi, padre! Dollar il ribelle gridava. Beneditemi e lasciatemi andare. Tic! Bloom guardava, non benedetto di andarsene. Messa su per essere irresistibile, a 18 scellini la settimana. Sono gli uomini che cavano la grana. È bene tenere sempre gli occhi aperti. Le belle, quelle belle, in riva alle tristi onde del mare. Il romanzo di una ballerina. Lettere lette ai processi per rottura di promessa di matrimonio. Al piccioncino suo da parte di Mammucciola. Risate tra il pubblico. Harry, non sono io che ho firmato. Che bel nome che. Giù calava la musica, motivo e parole. Poi accelerato. Il falso prete usciva soldato dalla sottana frusciante, un capitano della guardia. La sanno tutta a memoria, il brivido per cui prudono. Capitano della guar. Tic, tic. Rabbrividendo, ella ascoltava, chinandosi piena di simpatia ad ascoltare. Volto inespressivo. Vergine, direi, ho appena toccata. Scriverci qualcosa sopra. Pagina. Altrimenti cosa diventano? Declinano. Disperano. Le mantiene giovani e poi si ammirano. Vediamo, suoniamo su di lei, strumento alle labbra, corpo candido di donna, flauto vivente. Suona pian piano, forte, tre buchi tutte le donne. La dea non ho visto. Lo vogliono, senza troppi riguardi, e per questo lui se le prende. Borsa d'oro, faccia di bronzo. Di qualcosa, falle sentire, gli occhi negli occhi, canzoni senza parole. Molly, quel suonatore di organetto, ha capito lei che lui diceva che la scimmia era malata, forse perché assomiglia molto allo spagnolo. Capiscono anche gli animali in quella maniera, anche Salomone, dono di natura. Ventriloquio, a labbra chiuse, penso nello stom. Cosa? Vuoi? Tu? Io voglio che tu. Con rauco, rozzo furore, il capitano bestemmiava, gonfiandosi in apoplettico figlio di Troia. Buona idea, figliolo, di venire qui. Un'ora ancor ti resta da viver, la tua ultima. Tic, tic. Un brivido ora. È pietà che provano. Asciugarsi una lacrima per i martiri che stanno morendo dalla voglia di morire, per tutte le cose morenti, per tutte le cose nate. Povera Mrs. Purefoy, spero abbia finito perché il loro grembo. Una pupilla acquosa di grembo di donna spiava di sotto una siepe di ciglia, tranquillamente, in ascolto. Si vede la vera bellezza dell'occhio quando non parla. Sul fiume laggiù, ad ogni lenta onda di raso palpitante del seno, la sua palpitante opulenza, la rosa rossa lenta si alzava, si riabbassava la rossa rosa. Cuor palpitava il suo respiro, il respiro che è vita, e tutti i minuscoli capelveneri di Venere e i peli tremavano. Ma guarda. Le vivide stelle vaniscono. Oh, semi, ramide, il mattin. Ah, Lidwell, per lui allora, non per... Invaghito. Sono così anch'io. La vedo di qua, comunque. Tappi stappati, macchie di schiuma di birra, pile di bottiglie vuote. Sul manico liscio, aggettante della pompa della birra, posò Lidia la mano leggermente, paffutamente, lascialo in mano mia, tutta sciolta in pietà per il ribelle, avanti, indietro, indietro, avanti, sopra il manico lustro, essa sa che gli occhi miei, di lui, di lei, il pollice e l'indice passavano pietosi, passavano, posavano, e toccando delicati poi scorrevano lisci, lenti giù, una fresca, ferma clava di smalto bianco protuberante attraverso la lor cerchia scorrevole. Col chicchirichì, col coccoricò. Tic, tic, tic.